Il terzo anello, ad alta voce. Il deserto dei Tartari, di Dino Buzzati. Lagorio partì il mattino dopo. I due suoi cavalli erano ad aspettarlo con l'attendente dinanzi alla porta della fortezza. Il cielo era coperto e non pioveva. Lagorio aveva una faccia contenta. Era uscito dalla sua camera senza darci neanche un'occhiata, né si voltò indietro quando fu all'aperto per guardare la fortezza. Le muraglie stavano sopra di lui, cupe ed arcigne. La sentinella alla porta era immobile, non un'anima viva sulla vasta spianata. Da un casottino addossato al forte uscivano ritmici suoni di martello. Angustina era scesa a salutare il compagno, fece una carezza al cavallo. «Sempre una bella bestia», disse. Lagorio se ne andava. Scendeva alla loro città, alla vita facile e lieta. Lui invece restava. Lui guardava con occhi impenetrabili il compagno che si affaccendava intorno alle bestie e stentava a sorridere. «Mi pare fino impossibile di partire», diceva Lagorio. «Questa fortezza era per me un'ossessione». «Va a salutare i miei quando arrivi», fece Angustina, senza badargli. «Di alla mamma che io sto bene». «Sta tranquillo», rispose Lagorio, e dopo una pausa aggiunse: «Mi è dispiaciuto ieri sera, sai. Noi siamo proprio diversi. Quello che tu pensi, in fondo, io non l'ho mai capito. Sembrano manie le tue, io non so, ma forse sei tu che hai ragione». «Non ci pensavo nemmeno», fece Angustina, appoggiando la destra a un fianco del cavallo e guardando a terra. «Figurati se mi sono arrabbiato». Erano due uomini diversi, che amavano diverse cose, distanti per intelligenza e cultura. Ci si meravigliava persino di vederli sempre insieme, tanta era la superiorità di Angustina. Pure erano amici. Fra tutti quanti, Lagorio era il solo che istintivamente lo capisse. Solo lui sentiva pena per il compagno, quasi si vergognava di partire dinanzi a lui, come di una brutta ostentazione, e non sapeva decidersi. «Se vedi la Claudina», disse ancora Angustina, con voce immobile, «salutala. Anzi no, è meglio che tu non dica niente». «Oh, ma sarà lei a domandarmi se la vedo? Lo sa bene che sei qui». Angustina tacque. «Allora», disse Lagorio, che aveva finito di sistemare con l'attendente la sacca da viaggio, «forse è meglio che vada, se no faccio tardi. Ti saluto». Strinse la mano all'amico, poi, con elegante mossa, saltò in sella. «Addio, Lagorio!» esclamò Angustina. «Buon viaggio!» Diritto in sella, Lagorio lo guardava. Non era molto intelligente, ma un'oscura voce gli diceva che forse non si sarebbero più riveduti. Un colpo di speroni e il cavallo si mosse. Fu allora che Angustina alzò leggermente la mano destra, per fare un cenno, come per richiamare il compagno, che si fermasse ancora un momento. Aveva da dirgli un'ultima cosa. Lagorio vide il gesto con la coda dell'occhio e si fermò a una ventina di metri. «E cosa c'è?» domandò. «Volevi qualcosa?» Ma Angustina abbassò la mano, riprendendo l'indifferente posa di prima. «Niente, niente», rispose. «Perché?» «Ah, mi pareva», disse Lagorio perplesso, e si allontanò attraverso la spianata, dondolando sulla sella. Thank you. Le terrazze della fortezza erano bianche, così come la valle del sud e il deserto del settentrione. La neve copriva interamente gli spalti, aveva steso una fragile cornice lungo le merlature, precipitava con piccoli tonfi dalle gronde, si staccava ogni tanto dal fianco dei precipizi, per nessuna comprensibile ragione, e orribili masse rimbombavano nei canaloni, fumando. Non era la prima neve, ma la terza o la quarta, e stava a indicare che parecchi giorni erano passati. «Mi sembra ieri che sono arrivato alla fortezza», diceva Drogo. «Ed era proprio così. Sembrava ieri. Eppure il tempo si era consumato lo stesso con il suo immobile ritmo, identico per tutti gli uomini, né più lento per chi è felice, né più veloce per gli sventurati. Né adagio, né presto, altri 3 mesi erano passati. Natale si era già dissolto nella lontananza. Anche il nuovo anno era venuto, portando per qualche minuto agli uomini strane speranze. Giovanni Drogo già si preparava a partire. Occorreva ancora la formalità della visita medica, come gli aveva promesso il maggiore Matti, e poi sarebbe potuto andare. Egli continuava a ripetersi che questo era un avvenimento lieto, che in città lo aspettava una vita facile, divertente e forse felice. Eppure non era contento. Il mattino del 10 gennaio entrò nell'ufficio del dottore, all'ultimo piano della fortezza. Il medico si chiamava Ferdinando Rovina. Aveva più di 50 anni, un volto floscio e intelligente, una rassegnata stanchezza, e non portava la divisa, ma una lunga giacca scura da magistrato. Era seduto al suo tavolo con vari libri e carte davanti, però Drogo, entrando quasi all'improvviso, capì subito che non stava facendo niente, sedeva immobile, pensando a chissà cosa. La finestra dava sul cortile. E di qui saliva un suono di passi cadenzati, perché era già sera e cominciava il cambio della guardia. Dalla finestra si scorgeva un pezzo del muro di fronte e il cielo straordinariamente sereno. I due si salutarono e Giovanni si accorse presto che il medico era perfettamente al corrente del suo caso. «I corvi nidificano e le rondini se ne vanno», disse Rovina scherzando, e trasse fuori da un cassetto una carta con un formulario stampato. «Lei forse non sa, dottore, che io sono venuto qui per uno sbaglio», rispose Drogo. «Tutti, caro figliolo, sono venuti quassù per uno sbaglio», fece il medico con patetica allusione. «Chi più, chi meno, anche quelli che ci sono rimasti». Drogo non capiva bene e si accontentò di sorridere. «Ah, non la rimprovero». «Fate bene voi giovani a non ammuffire quassù», continuò il Rovina. «Giù in città ci sono ben altre occasioni. Ci penso anch'io qualche volta, se potessi». «Perché?» chiese Drogo. «Non potrebbe farsi trasferire?» Il dottore agitò le mani come se avesse udito un'enormità. «Farmi trasferire?» E rise di gusto. «Dopo 25 anni che sono quassù. Troppo tardi, figliuolo. Bisognava pensarci prima». Forse avrebbe desiderato che Drogo lo contraddicesse ancora, ma siccome il tenente tacque, entrò in argomento. Invitò Giovanni a sedere, si fece dare da lui nome e cognome, che scrisse al posto giusto, sul modulo regolamentare. «Bene», concluse. «Lei soffre di qualche disturbo al sistema cardiaco, vero? Il suo organismo non resiste a questa altitudine, vero? Facciamo così?» «Facciamo pure così», assentì Drogo. «Lei è il migliore arbitro di queste cose». «Prescriviamo anche una licenza di convalescenza, già che ci siamo?» fece il medico ammiccando. «Ah, la ringrazio», disse Drogo, «ma non vorrei esagerare». «Come vuole, niente licenza. Io alla vostra età non avevo simili scrupoli». Giovanni, invece di sedersi, si era avvicinato alla finestra e guardava ogni tanto in giù ai soldati schierati sulla bianca neve. Il sole era appena tramontato. Fra le muraglie si era diffusa una penombra azzurra. «Più della metà di voi altri dopo 3-4 mesi vuole andarsene», andava dicendo con una certa tristezza il dottore, anche lui ormai avvolto dalle ombre, tanto che non si capiva come ci vedesse a scrivere. «Anche io, se potessi tornare indietro, farei come voi, ma dopo tutto è un peccato». Drogo ascoltava il dottore senza interesse, intento com'era a guardare dalla finestra. E allora gli parve di vedere le mura giallastre del cortile levarsi altissime verso il cielo di cristallo e sopra di esse, al di là, ancora più alte, solitarie torri, muraglioni a sghembo, coronati di neve, aerei spalti e fortini che non aveva mai prima notato. Una luce chiara dall'occidente ancora li illuminava ed essi misteriosamente così splendevano di una impenetrabile vita. Mai Drogo si era accorto che la fortezza fosse così complicata ed immensa. Vide una finestra o una feritoia aperta sulla valle a quasi incredibile altezza. Lassù dovevano esserci uomini che egli non conosceva, forse anche qualche ufficiale come lui, del quale avrebbe potuto essere amico. Vide ombre geometriche di abissi fra bastione e bastione. Vide esili ponti sospesi fra i tetti, strani portoni sprangati a filo delle muraglie, antichi spiombatoi bloccati, lunghi spigoli incurvati dagli anni. Vide, fra lanterne e fiaccole, sul fondo livido del cortile, soldati grandissimi e fieri sguainare le baionette. Sul chiaro della neve formavano file nere immobili, come di ferro. Essi erano bellissimi e stavano impietriti mentre una tromba cominciava a suonare. Gli squilli si allargavano per l'aria, vivi e lucenti, penetravano diritti nel cuore. Ad uno ve ne andate tutti, mormorava Rovina nella penombra. Finiremo per restare soltanto noi vecchi. Quest'anno la tromba suonava giù nel cortile. Suono puro di voce umana e metallo, palpitò ancora con slancio guerriero, tacendo lasciò inesprimibile incanto persino nell'ufficio del medico. Il silenzio divenne tale che si poté udire un lungo passo scricchiolare sulla neve gelata. Il colonnello in persona era sceso a salutare la guardia. Tre squilli di estrema bellezza tagliarono il cielo. «Chi c'è di voi altri?» continuava a recriminare il dottore. «Il tenente Angustina, l'unico. Anche Morel, scommetto, quest'anno dovrà scendere in città a farsi curare. Anche lui, scommetto, finirà per ammalarsi.» «Morel?» Drogo non poteva evitare di rispondere per far vedere che ascoltava. «Morel ammalato?» chiese, non avendo afferrato che le ultime parole. «Oh no», fece il dottore, «una specie di metafora.» Pur attraverso la finestra chiusa si udivano i passi vitrei del colonnello. Nel crepuscolo le baionette facevano, allineate, tante strisce d'argento. Da lontananze improbabili giungevano echi di trombe, il suono di prima, forse, rimandato dall'intrico delle muraglie. Il dottore taceva. Poi si alzò e disse: «Ecco quel certificato. Adesso vado a farlo firmare dal signor comandante.» Piegò il foglio e lo mise in una cartella, staccò dall'attaccapanni il pastrano e un berrettone di pelo. «Viene anche lei, tenente?» chiese. «Da che cosa sta me guardando?» Le guardie montanti avevano deposto le armi e si muovevano ad una verso le varie parti della fortezza. Sulla neve la cadenza dei loro passi faceva un rumore sordo, ma sopra volava la musica delle fanfare. Poi, per quanto fosse inverosimile, le mura, già assediate dalla notte, si alzarono lentamente verso lo zenit e dal loro limite supremo, incorniciato da strisce di neve, cominciarono a staccarsi in nuvole bianche a forma di airone naviganti per gli spazi siderali. Passò nella mente di Drogo il ricordo della sua città, un'immagine pallida, vie fragorose sotto la piova, statue di gesso, umidità di caserme, squallide campane, facce stanche e disfatte, pomeriggi senza fine, soffitti sporchi di polvere. Qui, invece, avanzava la notte grande delle montagne, con le nubi in fuga sulla fortezza, miracolosi presagi, e dal nord, dal settentrione invisibile dietro le mura, Drogo sentiva premere il proprio destino. «Medico! Medico!» disse Drogo, quasi balbettando. «Io sto bene!» «Lo so!» rispose il medico. E cosa credeva? Io sto bene, ripete Drogo, quasi non riconoscendo la propria voce. Io sto bene e voglio restare. Restare qui alla fortezza? Non vuole più partire? E cosa le è successo? Io non so, disse Giovanni. Ma non posso partire. Oh, esclamò Rovina avvicinandosi. Se lei non scherza, giuro che sono contento. Non scherzo, no, fece Drogo, che sentiva l'esaltazione tramutarsi in una strana pena, prossima alla felicità. Medico, butti via quella carta. Così doveva accadere, e questo forse era già stabilito da molto tempo, cioè da quel giorno lontano che Drogo si affacciò per la prima volta con Ortiz al bordo del pianoro e la fortezza gli apparve nel greve splendore meridiano. Drogo ha deciso di rimanere, tenuto da un desiderio, ma non solo da questo. L'eroico pensiero forse a tanto non sarebbe bastato. Per ora egli crede di aver fatto una cosa nobile e in buona fede se ne meraviglia, scoprendosi migliore di quanto avesse creduto. Solo molti mesi più tardi, guardandosi indietro, egli riconoscerà le misere cose che lo legano alla fortezza. Avessero pur suonato le trombe, si fossero pur udite canzoni di guerra, dal nord fossero pure giunti inquietanti messaggi. Se era solo questo, Drogo sarebbe ugualmente partito. Ma c'era già in lui il torpore delle abitudini, la vanità militare, l'amore domestico per le quotidiane mura. Al monotono ritmo del servizio, 4 mesi erano bastati per invischiarlo. Abitudine era diventato per lui il turno di guardia, che le prime volte pareva insopportabile peso. A poco aveva imparato bene le regole, i modi di dire, le manie dei superiori, la topografia delle ridotte, i posti delle sentinelle, gli angoli dove non tirava vento, il linguaggio delle trombe. Dalla padronanza del servizio ricavava uno speciale piacere, valutando la crescente stima dei soldati e dei sottufficiali. Persino Tronk si era accorto come Drogo fosse serio e scrupoloso. Gli si era quasi affezionato. Abitudine erano diventati i colleghi. Oramai li conosceva così bene che anche i più sottili loro sottintesi non lo trovavano impreparato. Per lungo tempo alla sera stavano a chiacchierare insieme dei fatti della città che per la lontananza acquistavano smisurato interesse. Abitudine, la mensa buona e comoda, l'accogliente camino del ritrovo ufficiali, giorno e notte sempre acceso, la premura dell'attendente, un buon diavolo di nome Geronimo, che a poco aveva imparato i suoi speciali desideri. Abitudine, le gite fatte ogni tanto con Morel al paese meno lontano, 2 ore abbondanti di cavallo attraverso una stretta valle che oramai aveva imparato a memoria. Una locanda dove si vedeva finalmente qualche faccia nuova. Si preparavano pranzi sontuosi e si udivano fresche risate di ragazze con cui si poteva fare l'amore. Abitudine, le sfrenate corse a cavallo su e giù per la spianata dietro la fortezza, in gara di bravura con i compagni nei pomeriggi di riposo e le pazienti partite a scacchi la sera, che arrivavano ad alta notte, spesso vittoriose per Drogo, ma il capitano Ortiz gli aveva detto: «Sempre così i nuovi arrivati, da principio vincono sempre, a tutti capita lo stesso, ci si illude di essere veramente bravi, invece è solo questione della novità, anche gli altri finiscono per imparare il nostro sistema e un bel giorno non si riesce più a niente». Abitudine erano per Drogo la camera, le placide letture notturne, la fessura del soffitto sopra il letto che assomigliava alla testa di un turco, i tonfi della cisterna, col tempo diventati amici, la fossa scavata dal suo corpo nel materasso, le coperte, nei primi giorni così inospitali ed ora docilmente pronte, il movimento, oramai eseguito istintivamente nella lunghezza esatta per spegnere la lampada a petrolio o mettere il libro sul tavolino. Sapeva ormai come dovesse disporsi al mattino, quando si faceva la barba dinanzi allo specchio, perché la luce lo illuminasse in faccia con l'angolo giusto, come versare l'acqua della brocca nel catino senza spanderne fuori, come far scattare la serratura ribelle di un cassetto, tenendo la chiave piegata un po' in basso. Abitudine? Lo scricchiolio della porta nei periodi di pioggia, il punto dove soleva battere il raggio di luna, entrato dalla finestra, e il suo lento spostarsi col passare delle ore, il tramestio nella stanza sotto la sua, ogni notte, all'1:30 in punto, quando l'antica ferita alla gamba destra del tenente colonnello Nicolosi si risvegliava misteriosamente, interrompendogli il sonno. Tutte queste cose erano ormai diventate sue, e lasciarle gli avrebbe causato pena. Drogo, però, non lo sapeva, non sospettava che la partenza gli sarebbe costata fatica, né che la sua vita alla fortezza inghiottisse i giorni uno dopo l'altro, tutti simili, con velocità vertiginosa. Ieri e l'altro ieri erano uguali. Egli non avrebbe più saputo distinguerli. Un fatto di 3 giorni prima, o di 20, finiva per sembrargli ugualmente lontano. E così si svolgeva la sua insaputa, la fuga del tempo. Thank you.